Abbiamo avuto un caso di positività, purtroppo è stato il primo caso di positività annunciato a Londra ed è stato di un atleta per un controllo fuori competizione, per cui nei controlli in competizione ad oggi non abbiamo casi di positività, ma questo non cambia il problema, non cambia lo scenario. Purtroppo ancora nel mondo intorno a questa disciplina sportiva ci sono delle nazioni che barano purtroppo è anche abbastanza evidente, se andiamo a leggere le statistiche dei casi di positività, in quali nazioni ancora non si è riuscito in maniera etica a far capire che questo sport è possibile viverlo in maniera pulita. In Italia ci siamo assolutamente riusciti, sono esattamente 8 anni che in questa federazione non esiste più un caso di positività, per cui è possibile combatterlo questo fenomeno.